Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. In questa puntata parliamo di fotoromanzi, ma prima che qualche nostro ascoltatore storca il naso, devo avvertirvi che il fotoromanzo ha una radice comune con il fumetto. Ne ha condiviso comuni nemici, ha prodotto laceranti discussioni nella sinistra e nell'allora PC, e ancora oggi impone una diatriba non risolta tra contenuto e contenente, tra fini e mezzi. Troveremo nella trasmissione eroi da noi del Pioniere ben conosciuti. Ma dove comincia il cammino del fotoromanzo? Sono due fratelli. Si chiamano Alceo e Domenico. Sono gli editori del Duca, fumetti e storie d'amore a dispense. Cominciano a bazzicare il genere negli anni 30 a Milano. Si fanno le ossa con quegli opuscoli per giovani donne e li distribuivano proprio loro due, edicola per edicola. Poi inventano l'Intrepido, un fumetto. Avventure e storie d'amore mischiate insieme. Risultato, il pubblico raddoppia. I fumetti, si sa, erano stati sempre affare per giovanotti, ma l'Intrepido, con quel tocco d'amore, all'improvviso diventa roba buona anche per le signorine. Geniale, diceva la concorrenza. Semplice, diceva Domenico. È solo questione di matematica. E che c'entra la matematica? E allora Domenico, che stava per fare l'ingegnere, ma poi si buttò nei fumetti, partiva con la sua formula. Se una strada va al punto A e c'è un'altra strada che va pure al punto A, la strada di mezzo deve andare necessariamente al punto A. Ah, ecco. I romanzi rosa una strada, i fumetti d'avventura l'altra strada, avventure d'amore a fumetti la strada di mezzo. La formula della strada di mezzo aveva funzionato. Volevano rilanciare i Del Duca, ma li fermò la guerra. Aspettarono, continuando a fantasticare su quella strada di mezzo, ma che avevano in mente adesso? Un segreto. Poi la guerra finisce. Si cerca di dimenticare, ci si arrangia, si guarda avanti. I due fratelli, nella loro Milano, capiscono che è il momento buono. Un lavoro pazzesco, senza sosta. Non vogliono far sapere niente a nessuno, i Del Duca. Questa volta lo sentono. È grossa quella strada di mezzo. E allora incontrano collaboratori, grafici, disegnatori, nei bar, di nascosto. Mezza parola che acchiappa la concorrenza ed è finita, finita davvero. Acqua in bocca fino al 29 giugno 1946. Poi il colpaccio. Ma i fratelli ancora non lo possono sapere. Si chiama Grand Hotel. Sono fumetti, certo, ma come non si erano mai visti prima. A disegnare i due grandi dell'epoca, Molino e Bertoletti. Facevano acquerelle, sembravano persone in carne ed ossa, diceva la gente. Sarà per questo che 100.000 copie sono sparite dalle edicole in due giorni? 14 ristampe in fretta e furia del primo numero in una settimana. Settimana dopo settimana, man mano che uscivano nuovi numeri di Grand Hotel, le lettrici aumentavano. Si dice 10 milioni alla fine del 1946. E la storia mica finisce con Grand Hotel. Quei bei acquerelli con personaggi che sembravano in carne ed ossa fecero venire un'idea alla concorrenza. Perché i disegni? Solo fotografie e fumetti, con attori veri. E nasce il fotoromanzo vero e proprio. È il 1947, meno di un anno dal primo Grand Hotel. Appaiono nuove riviste. Si chiamano Bolero, Sogno e poi tante altre. C'era posto per tutti. Dunque, grande e sperato successo del fotoromanzo, ma quali erano gli ingredienti che facevano di questo fotoromanzo una delle grandi novità comunicative di un sofferto dopoguerra ricco di donne povere, ma in grande movimento sociale? Questa novità ce la ben spiega la storica Anna Bravo, che va nel mondo delle donne del dopoguerra. Uno degli aspetti interessanti legati alla grande diffusione del fotoromanzo è il fatto che ha una funzione per lo più misconosciuta di alfabetizzazione. Pensiamo a un'Italia povera, a un'Italia dove il tasso di analfabetismo era molto alto, ancora in particolare tra le donne, a un'Italia fatta ancora di paesi, paesi in cui non c'era, figuriamoci, il teatro certamente no, non c'era nemmeno il cinema, non c'era nemmeno l'edicola, cioè non c'era nemmeno una libreria, una biblioteca, ma c'era l'edicola. E in edicola arrivano a Bolero, Sogno, Grand Hotel, e sono un po' quello che porta una ventata di modernità, ma dell'emigrazione. È importante perché in fondo, avendo una diffusione nazionale questi giornali, leggerli a Torino o a Milano era in fondo avere un modo per comunicare con coetanee a partire dallo stesso testo. Questa era sicuramente una delle ragioni. Sei solo, sei isolato, non sai cosa dire, ma puoi dire guarda, in quel numero lì di Grand Hotel è successo questo, un linguaggio comune. Come molti uomini comunicano attraverso il calcio. Le donne potevano comunicare attraverso il racconto d'amore. Lo stesso testo, due te lo scambi, perché poi giravano questi fotoromanzi, soprattutto nel dopoguerra immediato, quando non c'erano proprio soldi, allora c'era, magari in un casellato lo comprava una volta, e poi questo fotoromanzo andava su e giù per le scale e era letto da tutti, la volta dopo lo comprava un'altra famiglia. Quindi era anche questo aspetto di interessante, di giornale che teneva insieme in qualche modo. Eddie, ti sto facendo la corte, non capisci? Pensavo che questa sera avremmo potuto cenare assieme. Ti ricordi quel piccolo ristorante sul Lungotevere? L'assurda schermaglia continua. E soprattutto Raimondo ne ha il cuore spezzato. Sei impegnata con... Oh, Eddie, no, non sposare quell'uomo. Non devi, non puoi sposarlo. Quale uomo? Sono contento che non sposi quel fanfarone. No, non lo sposo. Io sto bene così, Raimondo, sola. E se proprio vuoi sapere le mie intenzioni, eccole. Non sposerò mai. Addio. Son qua. Son qua. Ciao. Ti ho spaventata? Aspetta. Aspetta, ti prego. Non fuggire. Devi ascoltarmi. Non puoi fuggir così. La vastità e la qualità di questo interesse femminile, un mondo di donne povere, del popolo, donne lavoratrici, non poteva lasciare indifferente la sinistra e tantomeno il PC, e ancor meno la Dina Rinaldi, che dalla Resistenza nel 1945 arrivò all'UDI, l'Unione Donne Italiane. Arrivò trovando l'UDI con un bollettino che tirava poche migliaia di copie e in pochi anni trasformò questo bollettino in una rivista a tiratura di 50.000 copie. Questo anche perché all'interno del severo, austero bollettino comunista inserì pagine di cucina, pagine di moda e anche fotoromanzi. Ciò gli causò diverse critiche anche da lettrici di vecchio stampo del giornale, a cui rispondeva molto gentilmente ma seccamente: hai ragione, ma vedi, la nostra direttrice li ha inseriti nella pubblicazione proprio perché attraverso di essi si possono comunque esprimere nuovi e diversi concetti, ispirati tutti, ben inteso, al contenuto della rivista stessa. Mi spiego. La ragazza sciocchina, che si nutre dei correnti giornali a fumetti, prende in mano il nostro giornale appunto perché attratta da una storia d'amore. Guarda, legge e prima di tutto si accorge che anche il romanzo fumetto è ispirato da concetti sani e coraggiosi, diversi dagli altri romanzi fumetto. Poi, già che c'è, sfoglia anche le altre pagine. Qualcosa resta nel suo cervello, se non altro la curiosità. Chi sarà questa Grazia Cesarini? O Lorenzo Quaglietti, questa Sibilla Aleramo? Beh, la rubrica cinematografica può dare dei punti a tanti giornaletti. E la moda è fatta benissimo. La cucina va a finire che la nostra lettrice si troverà posta di fronte a problemi che ignorava assolutamente e comincerà a chiedersi se conosce davvero il suo diritto, il suo dovere. Vedi, noi non vogliamo soltanto aiutare le coscienti, ma anche svegliare, avvertire, informare le altre, e possiamo anche, perché no, ricorrere ai fumetti. E più avanti, dopo la sconfitta cocente dell'aprile 48, quando Viennuove, altra rivista del Partito Comunista, attaccava ferocemente i fotoromanzi come dispensatori di cultura piccolo borghese, la Rinaldi constatava: ma noi, con la nostra responsabilità di donne più avanzate, che cosa abbiamo fatto per rispondere a queste domande? Noi forse non le conosciamo nemmeno queste domande, forse, nonostante la nostra relativa emancipazione, non le abbiamo risolte nemmeno noi stesse. E questo è l'altro punto di partenza, sentire di più la nostra responsabilità davanti a tutte le altre donne, cominciare noi sui nostri giornali a tener conto di più di queste esigenze. E questa era Dina Rinaldi, che era capo dell'Udi e del suo giornale e che poi troveremo naturalmente a capo del Pioniere. La stessa battaglia analoga e la stessa diatriba coinvolse anche il fumetto. Sta di fatto che il successo del fotoromanzo, che riusciva a coniugare la favola a questi nuovi desideri di emancipazione della donna italiana lavoratrice, che voleva uscire dall'assoluto dominio del padre padrone, che decideva chi amare, chi sposare, con chi vivere, per magari vivere sogni impossibili e irraggiungibili come quella della poverella del principe, ma comunque quell'ideale che ci si può mischiare rompendo i tabù di classe. Beh, questo straordinario successo del fotoromanzo alla fine convinse anche l'atteggiamento dei vertici del PC a cambiare parere sull'argomento, e allora si pensò di utilizzare questo vettore comunicativo a fine di reale emancipazione sociale, come ci racconta Marcello Argilli. Argilli, sappiamo, uno dei maggiori collaboratori di Rodari, della Rinaldi durante il Pioniere, nonché grande romanziere per ragazzi indimenticato, vincitore di 1000 premi, insomma persona, come dire, molto ben informata. C'erano a volte addirittura dei modelli, per esempio un'avvocata. Io mi ricordo il fatto che di fare una storia in cui la protagonista è un'avvocatessa. Questo negli anni 50, l'avvocatessa era un fatto straordinario, nuovo, pochissimi erano. E dare un modello femminile di una donna avvocatessa. A un certo punto il Partito Comunista mi ha chiamato perché aveva deciso di fare un fotoromanzo di propaganda, cosa assolutamente nuova, in quanto, mi ricordo, nel 52 la discussione che c'è stata fra Togliatti e Rodari sul fumetti, il fumetto, in cui era impossibile che il Partito Comunista poteva fare dei fumetti o raccontare addirittura una storia del Partito Comunista a fumetti, che poi dopo Vie Nuove, 3-4 anni dopo, l'ha fatta naturalmente. E invece anche nel 61 c'è stata l'idea di poter utilizzare lo strumento a larga dimensione del film romanzo per dare dei programmi elettorali. Giovane sposa con 2 figli, Giovanna vive in un paese del meridione. Suo marito, Carlo, è emigrato in Germania per poter mantenere la famiglia. Ricevuto del denaro da Carlo, Giovanna si è affrettata a metterlo sul libretto postale. Ciao Rosaria, anche tu vieni alla posta? Sì, proprio oggi Antonio mi ha mandato dei soldi. Anche il marito di Rosaria è dovuto emigrare e lavora in una miniera belga. Ogni giorno quando apro il giornale tremo, ho sempre paura di trovare la notizia di una disgrazia. Succedono tante nelle miniere belga. In effetti è pur sempre una storia d'amore. Cambia il contesto rispetto al fotoromanzo tipico. Questo è realistico. E il soggetto fa riflettere, non c'è che dire. Dal 1946, il numero dei lavoratori italiani morti in incidenti in miniera in Belgio è di oltre 600. 136 tutti in una volta, l'8 agosto 1956 a Marcinelle. Errore umano, si disse. Praticamente condizioni di lavoro pericolose. Un incendio si sviluppò in galleria e non uscì più nessuno. Una disperata operazione di salvataggio durata 2 settimane, quando uno dei soccorritori pronunciò proprio in italiano: tutti cadaveri. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao. Via lontano, cercare un altro. sognando. E poi mille strade grigie come il fumo in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao. Elezioni politiche del 1963. C'era il boom economico, ancora per poco, e si continuava ad emigrare, ancora per molto. Questo è il tema della campagna elettorale del Partito Comunista. Dunque si prova la strada del fotoromanzo, purché serio nei contenuti. Nessun amore slegato dalla lotta di classe, nessun lieto fine. Le lettrici sono milioni. Perché no? Queste cose venivano distribuite sia dal partito, e perciò raccoglievo soltanto certe persone di un certo ambiente. Poi venivano queste cose distribuite in piazza, dove il sabato, la chiesa, l'incontro delle persone, che venivano dati questi libri sui fotoromanzi, che soprattutto alle donne, le quali con questi fotoromanzi erano attratte dal fatto un fotoromanzo gratis, lo leggevano, ecco, entravano dentro in una storia che faceva un discorso politico, ma nel suo tempo aveva una condizione reale che loro vivevano, perché tutti sapevano le condizioni che c'erano nel loro paese su degli emigrati. Anche chi non aveva i suoi emigrati, ma c'erano dei parenti che sono emigrati, avevano queste storie e venivano illuminati, presi una simpatia, acquisiva una simpatia. Solo votando per il Partito Comunista ci potrà essere in Italia benessere per tutti. E non avverranno più gli addii strazianti degli emigranti, né i giovani sposi che si amano perderanno gli anni più belli della loro giovinezza. Non mi sono mai sentita così forte e importante. Ora so che non bisogna rassegnarsi, perché il nostro avvenire dipende dal nostro voto. Insomma, si prende un grand hotel, o un sogno, o un bolero, e gli si cambiano i connotati. Invece dei sogni e dell'evasione ci si mette la realtà e l'impegno, e il gioco è fatto. E un pubblico di milioni di donne, pensavano gli impegnati politicamente, sono casalinghe, operaie, diamogli contenuti diversi e loro capiranno. Non è accaduto niente di tutto questo. Le lettrici dei fotoromanzi hanno continuato a scegliere altri sogni. I fotoromanzi ad alto contenuto politico si sono fermati alle campagne elettorali. E non c'è stato nessun complotto. Tantomeno è successo che il pubblico non sia stato in grado di capire. Semplicemente è una questione di regole del gioco. Una lettura completamente diversa, quella di un fotoromanzo o anche di un fumetto o anche di un romanzo leggero. È una lettura completamente diversa, che risponde a un bisogno. Se pensiamo alle fiabe, sono momenti di evasione, momenti di raccoglimento in cui si raccontavano e si fantasticava su cose che non potevano accadere, perché non accadeva mai che il figlio del contadino sposasse la principessa. Però queste erano le fiabe, insomma, si raccontava che il figlio del contadino o il figlio del o il desiderato potesse in qualche modo sposarsi con una principessa, proprio perché grazie alle sue abilità era possibile arrivare fino a questo. E dopo Marcello Argilli, che raccontava il PC ondivago su il tema del fotoromanzo, siamo arrivati a Ermano Detti, editore per ragazzi, peraltro l'ultimo grande editore di Marcello Argilli, quindi c'è un filo conduttore in questo ragionamento della favola che è ingenua ma non sciocca e non si fa ingannare dalla verità. Ancora negli anni 70 gruppi extraparlamentari come Lotta Continua provarono, anche a fine di autofinanziamento, a praticare la strada del fotoromanzo in versione erotica, ma anche questa volta l'espediente fallì, perché le masse lettrici, per quanto ingenue, non sono stupide e sanno scegliere l'originale dall'artefatto. Ma quando finisce il fotoromanzo? Quando, prima dal Brasile e poi da tutto il mondo, sbarcano le telenovelas. Così Dallas o Beautiful prendono il posto del fotoromanzo e quello che era il sogno di giovani donne in cerca di emancipazione negli anni 50 diventa la compagnia pomeridiana di massaie ed anziani a tu per tu con lo schermo televisivo ricco di cattivi modelli alla JR o ad alla Myrta Clegg. Il 12 novembre di questo mese è venuto a mancare Stan Lee, un personaggio monumentale nel mondo dei fumetti. Il suo nome inevitabilmente si lega all'edizione Marvel e ai supereroi, in primis tra quello Spider-Man, quell'uomo ragno, che ha fatto una fortuna sia di carta che di film. Nino Augusto Fujiko di Michele Pompei ne ha chiesto ricordo a Loris Cantarelli, direttore di Fumo di China. La notizia non è arrivata del tutto inaspettata, dato che tra un mese lui avrebbe compiuto 96 anni. Dall'anno scorso, quando è scomparsa la amata moglie John, le sue condizioni di salute si erano un po' aggravate, ma l'influenza esercitata nell'immaginario di tutto il mondo da Stan, soprattutto dai suoi personaggi ideati tra l'altro in un arco di pochissimi anni, diciamo che la gran parte dal 61 al 65 con colleghi come Jack Kirby e Steve Ditko, che tra l'altro era scomparso lo scorso fine giugno, quindi i Fantastici 4 sono nati nel 61 con Jack Kirby, Hulk e l'Uomo Ragno nel 62, gli X-Men e gli Avengers nel 63, quindi veramente stiamo vivendo ancora su personaggi, su idee, su storie, su immagini che si sono sviluppate in quei famosi anni 60, favolosi anni 60 direbbe Mina, però diciamo nei primissimi anni degli anni 60 americani. La sua esperienza e la sua influenza, insomma, è stata tale che appunto chiunque abbia letto un fumetto, visto un film, guardato una serie animata o dal vero che avesse come protagonista i suoi personaggi non può fare a meno di rivolgergli un pensiero, appunto è un misto di emozione, cuore e testa, perché è difficile riassumere in pochi minuti un uomo e un professionista che ha avuto un eco e un'influenza incalcolabile, perché c'è una centinaia, in ogni paese ci sono centinaia di professionisti, di autori che devono a lui la scintilla creativa per aver fatto questo lavoro a tanti livelli, perché poi negli anni lui ha visto crescere e ha fatto crescere un'intera industria, ovviamente dal palcoscenico privilegiato degli Stati Uniti, ma poi di fatto portando un po' tutto il settore, perlomeno nell'ambito occidentale, su non tanto sul suo genere, cioè quello supereroistico, ma dimostrando insomma che raccontare storie a fumetti poteva alla lunga diventare qualcosa di molto grande, quello che poi è diventato. Diciamo, per farla breve, lui a 39 anni voleva licenziarsi dall'azienda che si era appena ribattezzata Marvel, ma non aveva ancora, diciamo, assunto le proporzioni che poi ha raggiunto in pochi tempi. Per fortuna, si dice, la leggenda dice che ha dato retta alla moglie, che gli ha detto insomma, prima di licenziarti prova a scrivere le storie che non si vedono e che tu vorresti raccontare. Lui lo fece con i Fantastici 4 e questo poi si è sintetizzato nella formula dei supereroi con super problemi. ha rivitalizzato vecchi personaggi come la Torcia Umana, Capitan America, gli ha dato nuova vitalità, ha creato storie avvincenti con un metodo che per noi europei sembra un po' naif, ma in pochi anni ha costruito le basi su cui ancora oggi ci si poggia. Lui spiegava al disegnatore la trama della storia, a volte recitandola, saltando sui tavoli, mettendoci tutta la sua verve, e poi artisti che bisogna dire avevano anche una qualità notevole come John Romita, Jill Kane, Ross Andrew, per fare qualche nome, loro disegnavano la storia. Al che poi lui riprendeva le tavole, aggiungeva i testi nelle nuvolette con una prosa roboante ma comunque divertente, che non nascondeva, non copriva le tragedie, il dramma delle vicende narrate, ma le rendeva sopportabili ai protagonisti, soprattutto le rendeva indimenticabili ai lettori di ogni età e di ogni epoca, perché poi venivano continuamente ristampate. Senti Loris, una domanda al volo che ti faccio è questa: che immagine dell'America si può ottenere leggendo tutta la letteratura Marvel, insomma dagli esordi, almeno per il corso degli anni 60 e l'inizio del decennio successivo? Che America è? Un'America conservatrice, un'America invece progressista e liberale? Cosa ci puoi dire di questo? Direi innanzitutto che rispetto a molti altri fumetti, anche di supereroi, il mondo Marvel è sempre stato molto legato alla realtà. Cioè i personaggi non abitano città immaginarie come Batman a Gotham City o Superman a Metropolis, ma l'Uomo Ragno vive a New York, altri vivono a Washington, i Vendicatori della Costa Ovest, per dirne una, sono ambientati in California, quindi ci sono senz'altro molta più aderenza alla realtà. Lo stesso Stan nel 66 ha creato un supereroe di colore che proprio quest'anno ha sbancato i botteghini di tutto il mondo, che è Pantera Nera, Black Panther. Lui stesso andava nei college americani nell'epoca delle, diciamo così, nel pre-68, a dire di non smettere di sognare e di lottare. Quindi penso che anche gli ultimi 20 anni, che il cinema e la TV hanno cannibalizzato un po' tutti i suoi personaggi, ovviamente con reciproca soddisfazione, perché lui stesso si divertiva ed era un richiamo reciproco, un rimbalzo continuo a partecipare per pochi secondi in ogni film tratto dai suoi personaggi, quindi gli effetti speciali permettevano finalmente di rendere anche su grande schermo quello che con la carta sono più di 50 anni che vediamo e che non finiamo più di leggere. Quindi penso che il modo migliore per ricordarlo sia proprio senz'altro rileggere le sue migliori storie, ma ricordare anche questa immagine, insomma, di non arrendersi, di continuare a sognare nel senso buono, ecco. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va?